Dice: come guardare un incidente stradale, sai come finirà? È solo una questione di tempo. E di fatto, insomma, una voce fantastica, ma una vita tribolata, per usare un eufemismo. Anche Repubblica dedica 3 pagine: morte di una rock star nella pagina, un inserto culturale di Repubblica, droga, alcol, eccessi, la vita spericolata di Amy Winehouse sembra uscita dagli anni 70, ora tutti a raccontare che era delusa perché era stata lasciata dall'ultimo fidanzato, la madre che dice: l'ultimo giorno è stata con me, mi sembrava persa, poi sulla porta di casa mi ha salutato dicendo: mamma, ti voglio bene, sono le parole che terrò sempre con me. In ogni caso, Amy Winehouse, trovate tante pagine sulla sua scomparsa. Infine, la Gazzetta dello Sport: abbiamo una fede immensa, questo è il titolo, con foto giustamente dedicata a Federica Pellegrini, ancora campionessa mondiale sui 400 stile libero. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:19 minuti. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare Matteo Richetti del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei Milan e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, Matteo Richetti è il presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, il Consiglio regionale, insomma, della... Esatto, ci siamo inventati un nome un po' complicato, ma è proprio quello. Però insomma, si dice tanto, la casta, la politica non taglia, non taglia, non dà l'esempio, non dà l'esempio, cari ascoltatori. Oggi vi diamo l'esempio che tagliare si può. Matteo Richetti ha proposto, primo proponente, e il Consiglio regionale ha votato l'unanimità. Intanto i vitalizi per la regione Emilia-Romagna dalla prossima legislatura non ci saranno più, ma è vero? Sì, è vero, abbiamo con un progetto di legge approvato ed entrato in vigore nel gennaio di quest'anno abolito definitivamente, quindi non trasformato, non convertito in fondo, ma definitivamente abolito la pensione per i consiglieri dalla prossima legislatura. Anche quelli che fossero confermati degli attuali nella prossima legislatura non godranno più di questo istituto. Ovviamente l'obiezione che è stata fatta, ma come, dalla prossima fatelo da subito, non basta, non basta, obiezione che colgo, ma io ho immediatamente chiesto ai presidenti di Camera e Senato, Fini Schifano, e ai miei colleghi delle altre regioni, visto che è un'operazione così semplice perché si fa dalla prossima legislatura, di fare altrettanto. E cosa, purtroppo... perché infatti lei gli ha anche scritto, cioè no, perché avete capito la portata, cioè non ci sarà più il vitalizio dalla prossima legislatura per i consiglieri regionali. È già una cosa clamorosa per me in questi tempi, no? Di questi. Che dice Richetti? Sì, in realtà, vede Milan, qui di costi della politica ne stanno parlando tutti e forse anche troppo. In un paese quando un tema è molto all'ordine del giorno è la volta buona che non si conclude proprio nulla. Qui devo dire, per tempo abbiamo cercato di prendere in mano il problema. In quel provvedimento a cui faceva riferimento lei c'è una abolizione totale dei vitalizi, un'abolizione delle indennità di missione, cioè quando un consigliere fosse all'estero, fosse in Italia, fuori sede per missione, non ha più diritto a nessuna indennità se non al rimborso spese secco di ciò che appunto spende. La rinuncia dell'auto blu del presidente, la riduzione dei 650.000 euro ai gruppi consigliari, la riduzione delle indennità, insomma tutto questo porta l'Assemblea della Regione Emilia-Romagna a costare 34 milioni di euro. Ma questo per dire che si può fare, cioè voglio dire, perché appunto se ne parla, ma si può fare, non è complicato. Cioè Fini e Schifani che cosa le hanno risposto? Perché voi avete mandato... Ovviamente no, nessuna risposta. Le posso anche garantire che insomma c'è molta freddezza, perché questa è stata vissuta dalle altre istituzioni come una fuga in avanti, la rottura di un sistema che deve tenersi insieme, quindi le posso garantire che insomma le tensioni sono state molto, molto alte. Cioè almeno le altre regioni lo facciano, cioè se l'avete fatto voi, tutte le regioni potrebbero farlo. Panorama scrive che ci sono 3.385 in Italia politici, ex consiglieri regionali che prendono la pensione. Sì, persone che dopo 5 anni di servizio nelle istituzioni, occorre 40 anni di lavoro alle persone normali, hanno diritto a indennità, devo dire, anche molto diverse tra di loro. Qui si va a chi riconosce fino al 90% dell'indennità dei consiglieri. Noi abbiamo abolito un vitalizio che consentiva di maturare il 20% dell'indennità, quindi alla fine, siccome un consigliere regionale in Emilia-Romagna ha un'indennità di 6.000 euro lordi, stiamo parlando di 1.200 euro al mese. Non sono molti, ma è comunque un'ingiustizia che dopo 5 anni ci sia questo riconoscimento. Certo. Vitalizio finalmente abolito, ma che insomma io spero che possa rappresentare un po' un apripista, un inizio anche per altre regioni. Ma è vero, invece... è vero che le hanno dato un premio, due associazioni, il premio Forbici d'Oro? Sì, una cosa molto carina, sono due associazioni di ragazzi di Latina che hanno, insomma, che tutti gli anni premiano il provvedimento più virtuoso in termini di riduzione dei costi, di semplificazione amministrativa, eccetera, hanno intercettato questa, che non è insomma una decisione in itinere, è una legge approvata, e quindi il 2 e il 3 di settembre sarò a Latina a ritirare questo premio. Io mi auguro anche che Milan si apra una riflessione un po' seria su quanto debbano costare le assemblee elettive nazionali, regionali. Qui tutti parlano di costi standard nella sanità, ma io faccio una proposta: se un Parlamento di 50 parlamentari regionali come il nostro costa 34 milioni di euro, ma perché la Camera dei Deputati, che ha 600 parlamentari, cioè 12 volte tanto, deve costare 40 volte l'Emilia Romagna, 1 miliardo e 200 milioni? Lei Richetti mi sa che non farà strada nella politica nazionale. Io forse non farò strada, però il punto non è prendere la singola voce, allora il vitalizio, allora il 10% delle indennità, allora un po' di tagli lineari, ma è applicare, altrimenti si sfocia nella demagogia, nell'antipolitica, allora tutto è troppo, quando le cose non hanno valore, anche un euro riconosciuto, un euro cacciato via. Io dico, fissiamo un costo congruo della democrazia. Un costo congruo vuol dire che se il Parlamento regionale, che ha la stessa funzione del Parlamento nazionale, quindi ha uffici legislativi, quindi personale, indennità, logistica, eccetera, è un dodicesimo, ma costa un dodicesimo. Il Senato ha 300 senatori, sono 6 volte il Consiglio regionale, ma non può costare 600 milioni di euro, perché se io costo 35, a 35 lo moltiplico per 6, non fa 600. Allora, qui il problema è che decidano loro, vogliono tenersi l'indennità così, e si toglieranno il barbiere, le auto blu, il vitalizio. Ma Tremonti ha provato a tagliare, appena ha detto tagliamo le indennità ai vitalizi, è successa una rivolta. Ma a me pare però, Milan, un balletto un po' desolante questo. Uno ci prova, il Parlamento anestetizza, poi riforma costituzionale. Sappiamo tutti che per le riforme costituzionali, faccio riferimento al dimezzamento dei parlamentari di Calderoli, serve una doppia lettura dei due rami del Parlamento. Il Parlamento messo così, arriviamo in fondo. La Regione Emilia Romagna per statuto aveva 67 consiglieri regionali che dovevano scattare nel 2010, anno in cui si votava. 6 mesi prima si è fatta un'operazione di consenso trasversale, doppia lettura in 2 mesi, e si è riportato il numero 50. Quando le cose si vogliono fare, si fanno. E questo è il messaggio. Quando si vuole prendere tempo, si prende tempo. Ma neanche le altre regioni, cioè qualcuna delle altre regioni che vi hanno detto, lei Richetti fa esagera, oppure no, qualcuno dice bravo, lo facciamo anche noi. Insomma, qualcosa si sta muovendo, sono stati diversi gruppi consigliari che hanno chiesto il nostro testo di legge, si sono aperte delle discussioni. Io mi auguro, adesso parte le battute, che in questa legislatura, noi l'abbiamo fatto dopo 6 mesi dall'avvio, perché era serio non aspettare la fine, quando si è in fondo non si trova mai il tempo di fare questi provvedimenti, abbiamo un po' di anni davanti, che questa sia davvero l'ultima legislatura in cui questo spazio, che obiettivamente assume lo spazio di privilegio, possa essere in un qualche modo chiuso definitivamente. Mi faccia capire, quanto guadagna un consigliere regionale? Me l'ha detto prima Netti o Lordi. Un consigliere regionale in Emilia Romagna oggi ha un'indennità lorda di 6.000 euro e una diaria di 2.000, vuol dire 8.000 euro lordi, che aggira tra i 4 e i 5.000 euro un consigliere regionale questo in Emilia Romagna. Netto, 4-5.000 euro netto. E 5 anni di consiglio, a che tipo di vitalizio prima o adesso? Diritto. Come le dicevo, danno diritto quel 20% che applicato sui soli 6.000 dell'indennità maturavano 1.200 euro lordi. 1.200 euro lordi. Alla fine non erano cifre astronomiche, però appunto c'è un problema di principio. E poi l'altra cosa che dico io è, ma se un consigliere guadagna 4-5.000 euro netti al mese, ha le risorse in autonomia per farsi una previdenza integrativa, fanno tutti i lavoratori? Perché il disagio c'è, vede, c'è. Io sono in aspettativa da un posto di lavoro, in questi 5 anni di servizio i miei contributi previdenziali fanno scappare da ridere, mi arrivano le comunicazioni, sono poche migliaia di euro all'anno, però con le mie risorse sono in grado di fare una previdenza integrativa che non pesi sulle casse della regione, perché questo è il punto. E l'altro punto di debolezza, mi scusi, è non ci si può occupare delle sole pensioni nostre, perché con i precari che non mettono assieme una pensione dopo 40 anni di lavoro e i lavoratori dipendenti cui stiamo chiedendo slittamenti anche all'interno di questa manovra, è incomprensibile come anche noi non diamo un contributo di sacrificio. Ma anche lì Tremonti ha detto, soprattutto Italia, le super pensioni, il 10% riguardi anche i parlamentari. Staremo a vederle, eh. Intanto, insomma, così parlò Matteo Richetti. Noi prendiamo il suo sposiamo la sua causa, se possibile, poi vediamo. Ecco, vada da Fini e Schifani, bussi alla porta, faccia un picchetto davanti al Parlamento, si sieda lì, faccia un sit-in finché non la ricevono, insomma, almeno no, eh. Posso lei, però mi scorta lei, Milan, eh. Io vado, busso, apro e dietro ci sono io e anche lei. Vabbè, ma che problema c'è? Vengo, mica stiamo parlando di Fini e Schifani, mica la mettiamo in pasto a chissà chi. Faremo però azioni che rendano pubblico questo provvedimento, solo perché insomma, questo davvero può sapere una riflessione seria, soprattutto la concretezza di qualche provvedimento. No, ma almeno fate un po' più di pubblicità su sta cosa, perché sennò si parla solo di casta, qualcuno che ha tagliato c'è, fatelo sapere in maniera un po' più... Siete tra i pochi insieme ad altri media nazionali che insomma ci danno la possibilità, perché qualcuno veramente ha anche interesse appunto a dipingere davvero questa casta in cui di notte tutte le vacche sono grigie e siamo tutti così, siamo tutti politici, siamo tutti i costi della democrazia. Tutti ladri, invece. No, non è così. Intanto la ringrazio, buona giornata. Bene, ovviamente. Allora, buona giornata. Grazie Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Lì i vitalizi li hanno tagliati, così come il 10% delle indennità e altre cose. Se si vuole si può, si fa, se non si vuole non si fa. Fini e Schifani, se avete preso nota, avete sul vostro ufficio il progetto di legge dell'Emilia Romagna, in poche righe, pochi articoli, l'hanno fatto. Ci fermiamo, poi parliamo di in politica sempre, il rapporto Lega-PDL. Allora, si arriva alla fine della legislatura oppure no? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati. Eccoci qua allora nel nostro sondaggio di oggi. Vogliamo parlare di politica, vogliamo parlare soprattutto dei rapporti tra Popolo della Libertà e Lega, perché ci sono stati la scorsa settimana dei problemi con ovviamente il voto di Alfonso Papa, qualche tensione. Ora però pare tutto ricomposto, almeno Maroni dice se arriverà alla fine della legislatura. Questo è anche il nostro tema. Ma il tema del nostro sondaggio, secondo voi si andrà a elezioni anticipate? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, alle 8:35 minuti, intanto abbiamo sentito questa notizia, purtroppo in breaking news, vi daremo ovviamente conto nel corso della programmazione, appunto la notizia di una nuova vittima italiana che sarebbe stata data ora anche dall'agenzia ANSA. Anche l'agenzia ANSA ha dato questa notizia di un militare italiano rimasto ucciso. Allora, intanto voglio salutare Antonio Padellaro, direttore del Fatto, ben ritrovato, buongiorno Padellaro. Buongiorno a voi. Eccoci qua, vogliamo iniziare a parlare di quello che sta succedendo, perché ma allora tutto a posto quando Maroni dice si arriva al 2013, si arriva al 2013 e come, oppure questo gioco di tensioni tra Popolo della Libertà e Lega che porta un po' l'impasse di governo, che nasconde una tensione in realtà che è strisciante. No, ma la tensione c'è e resterà, c'è perché l'abbiamo visto non solo sul voto sull'arresto di Papa, ma lo vediamo su ogni questione. Adesso purtroppo arrivano brutte notizie dall'Afghanistan. Ecco, ricordiamo che la Lega ha chiesto il ritiro del nostro contingente dall'Afghanistan, ministri importanti come Calderoli lo hanno fatto e poi la Lega contesta anche l'esborso finanziario per tenere queste missioni. Quindi quando si riproporrà questo problema credo che ci sarà di nuovo tensione, scontro tra la Lega e per esempio il ministro della difesa La Russa, che ovviamente difende invece lo status quo. Sì, effettivamente su questo sì, la notizia è appunto molto fresca, però sappiamo che questa notizia dell'Afghanistan e su questo tema la Lega con Bossi spesso ha detto via, casa, il militare, cioè ha creato tensioni politiche, no? E rischia di crearne di ulteriori. Sì, ma poi rapidamente ci sono decine di questioni sulle quali ormai Lega e Berlusconi non vanno più d'accordo. Quando Calderoli questa mattina in un'intervista dice il nuovo ministro della giustizia non deve parlare con gli avvocati di Berlusconi, dice una cosa molto, molto seria, una volta tanto. Dall'altra parte però, come fa la Lega a sganciarsi da questo governo? Io penso che in un futuro prossimo la Lega deciderà di andare da sola, dalle prossime elezioni in poi, ma è una mia opinione, magari sbaglio. Oggi la Lega deve restare ancorata a questo governo per un semplice motivo, perché c'è il famoso federalismo che deve essere completato e l'unica speranza che ha la Lega per presentarsi ai propri elettori e dire qualcosa è servito stare al governo nella Roma ladrona è portare a casa il federalismo, altrimenti è un fallimento su tutta la linea. Quindi l'idea di una Lega che corre da sola, beh, interessante anche questa idea, anche se un'altra idea che viene diffusa, soprattutto oggi viene rilanciata dal giornale, è questa idea, Padellaro, la trappola dei banchieri, oggi titola il giornale, cioè ritorna come uno spettro per qualcuno, come un qualcosa di vergognoso perché delegittima il voto popolare secondo qualcun altro, come il consigliere Antonio Martino, ex ministro, molto vicino a Berlusconi, un qualcosa che si chiama governo tecnico, che gli italiani faticano a capire, faticano ad accettare o accetterebbero, chiedo a lei Padellaro, questa idea del governo tecnico, perché è una cosa molto tipicamente italiana. No, la linea del Fatto Quotidiano è abbastanza chiara su questo. Berlusconi ormai è il fantasma di un Presidente del Consiglio, questo governo non combina più nulla, è un governo paralizzato da mille problemi e anche dalla propria inettitudine, però è un governo che retto da una maggioranza che è stata votata dalla maggioranza degli italiani. Ora, per carità, non è anticostituzionale un governo tecnico se si trova la maggioranza una maggioranza trasversale. Io trovo e noi troviamo che sia una scorrettezza nei confronti proprio del modo con cui i governi devono essere formati. Detto questo, mi sembra che poi ci sia questa girandola di nomi che servono molto ai giornali, compreso il nostro, per dire, per raccontare tante cose che avvengono nelle anticamere dei palazzi, ma non so se ci sia qualche possibilità che tutto questo avvenga. Abbiamo visto che Fini ieri ha proposto Maroni. Sì, la cosa è durata pochi minuti. Sono effettivamente suggestioni giornalistiche estive, non credo che ci sia in questo momento nessuna possibilità di formare un governo trasversale, perché il PDL non ci starebbe, perché il PD non si suicida, penso, appoggiando ministri del PDL, insomma. Sì, no, Maroni premier, effettivamente su questo pochi hanno seguito Gianfranco Fini, devo dire, su questa intervista su Repubblica. Intanto comunque i nostri ascoltatori si dividono sull'idea, secondo voi se andare a elezioni anticipate il 52% dice di no, il 48% sì. Vorrei sentire 800 24 00 24 un ascoltatore, Luca da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Sì, deve spegnere la radio però, Luca. Un attimo. Ha tutto il tempo che vuole, che dobbiamo fare? Eccoci qua, Luca, dica. Niente, ma secondo me la Lega non va da nessuna parte utilizzando questo atteggiamento. Nella realtà vuole ottenere solo qualcosa dal PDL, però molte cose le ottiene, perché molte volte si parla solo del fatto che si vota contro nel governo. In realtà nell'ultimo credo legislativo sui contratti pubblici ha ottenuto una cosa forte, cioè il fatto che si può fare affidamento diretto fino a 1 milione di euro per appalti. Di questo non parla nessuno. Certamente al sud questo non si può fare, perché nel momento in cui si fa una cosa del genere. Me la rispieghi, Luca, questa. Spiego subito. Nell'ultimo decreto legislativo, decreto sviluppo, sì. Viene consentito per le stazioni appaltanti di affidare fino a 1 milione di euro a trattativa. E questo perché la Lega lo fa? Perché la Lega ha tante municipalizzate al nord e vuole evitare di fare bandi pubblici per evitare che imprese del sud partecipino al nord, in modo che si fa la cricca e si fa l'affidamento. Questo non si parla di questo, la Lega di questo non parla di queste cose. Finché qualche funzionario della Lega ci andrà a finire con le dita dentro, vedremo l'atteggiamento della Lega, se sarà così liccio al dovere. Non so, non se ne parla neanche il centro-sinistra di questa So che magari non so se Alfatto o Padellaro prenderanno appunti, perché insomma loro su queste cose insomma tengono gli occhi ben aperti, non so, sul decreto sviluppo, questa cosa che secondo il nostro Luca La Caserta permette ai leghisti, non si sa solo perché i leghisti, di fare affari in qualche modo così. Intanto io voglio salutare anche Stefano Zurlo del Giornale, buongiorno Stefano. Buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie per essere con noi, col direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Insomma, si discute di rapporti PDL e Lega. Allora Stefano, oggi il Giornale appunto titola "La trappola dei banchieri", questa idea di un governo tecnico che aleggia come spettro. Oggi Rosi Bindi nell'ennesima intervista dice Mario Monti. Beh, insomma, Mario Monti effettivamente è un buon nome, ma non spetta a noi dire nomi. Ma allora, perché se tutti da un lato dicono ancora Maroni si regge fino al 2013, c'è questo gioco rimpiattino di fianco a dire il governo tecnico, che legislatura è? Forte? Una unione salda oppure no? Ma mi sembra una legislatura debole e sempre più debole, e mi pare che siccome siamo in una fase di evidente cambiamento e anche di confusione, la Lega, che peraltro non è un monolite, perché ci sono diverse anime, come sappiamo, nella Lega, ci sono spinte, controspinte, come è normale che sia in momenti appunto di cambiamento, di confusione e di variazione sul tema, chiamiamola così, nella Lega si gioca una partita complicata e lo stesso sta accadendo, anche se in forme diverse, nel PDL. Apparentemente tutti dicono appunto che quello che è accaduto, per esempio lo strappo su Papa, no, non cambia, Bossi ha ridetto, funziona tutto bene, Maroni ha riparlato, siamo tutti d'accordo, però gli indizi si moltiplicano. Adesso io non so se gli indizi sono tre, che come si sa fanno una prova, se sono sì, diventati 4, 5, 6, ma gli indizi di difficoltà, di malumore, soprattutto diciamo della parte legata a Maroni, dentro la Lega, contro Berlusconi e contro il governo, mi paiono sempre più forti, sempre più evidenti, sempre più netti. Allora, il discorso del governo tecnico, se, diciamo, funziona un po' così. Intanto, come sappiamo, lo sai benissimo, quando non si sa bene cosa fare si parla sempre di governo tecnico in Italia, che poi è il governo che fa quello che i politici non riescono a fare, cioè le riforme, le auspicate riforme che poi spesso finiscono con l'essere manovre che colpiscono duramente i cittadini. In un momento difficile come questo, con le borse che vanno su e giù, con tutto quello che succede, questa sembra come sempre la panacea di tutti i mali. Ma poi il governo tecnico serve evidentemente come prova appunto di smarcamento e di cambiamento. Allora si dice si fa un governo tecnico, questo governo permetterebbe la famosa riforma elettorale. In sostanza il governo tecnico è il modo con cui si dice si fa fuori Berlusconi e si cambiano le cose, ma non credo che si andrà in questa direzione. Sì. Io credo che questo giochino si fa il governo tecnico, non si fa, si va avanti, è tutto saldo, proseguirà tra strappi, controstrappi, ricomposizioni, mezze ricomposizioni ancora per un bel po'. Naturalmente che non subentri una situazione di crisi assoluta dell'economia, o che si inneschi qualche altro incidente giudiziario, ma fortissimo, perché agli incidenti giudiziari siamo abituati. Cresce però, secondo me, sotto questa questione del governo tecnico, in realtà si potrebbe preparare, ma anche questo mi è ancora prematuro, un altro governo mezzo tecnico, che in realtà non sarebbe tecnico, ovvero un governo Alfano-Maroni, che poi potrebbe essere il futuro del PDL. Alfano-Maroni, anche se oggi appunto Calderoli, in questa intervista che citava anche Padellaro, fatta da Stampa, da Ugo Magri, dice Maroni premier da parte di Fini, ma si capisce che il vero candidato sarebbe Monti e noi non siamo così sciocchi da ingoiare polpette avvelenate. Poi qualcuno dice elezioni anticipate, da qui ripartiamo dopo il traffico, ma elezioni anticipate di chi? Ma dall'altra parte l'opposizione come è messa, voglio dire, il Partito Democratico, ma leggete adesso i giornali, la questione anche giudiziaria che sta effettivamente coinvolgendo il Partito Democratico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:48 minuti, allora, ci saranno elezioni anticipate? Appunto, questo vi chiediamo. Secondo il 52% degli ascoltatori no. Vorrei sentire, a proposito degli ascoltatori, all'800240024, Liano dalla provincia di Pescara, è corretto? Così. No, Liano. Buongiorno. Sono Adriano. Adriano, infatti mi sembrava. Allora, prima si diceva che la Lega, eventualmente ci fossero le elezioni, potrebbe andare da sola, ma Bossi è un cretino, non si fa i conti? Così è chiaro che si fa i conti, ma andando da sola a che fare? Per un'eventuale alleanza con il PD? Disastroso? Guardi Adriano, che anche nei giorni scorsi Matteo Salvini, ai nostri microfoni, ha detto la Lega, che è un movimento autonomista, fa le alleanze di interesse, cioè non è un movimento di destra, di sinistra, ha degli obiettivi ben precisi, il federalismo. Ci sta un feeling pazzesco con Berlusconi, al di fuori di quello che tutti i giornalisti dicono. Ma come fa la Lega a fare alleanze con Di Pietro, che prende la pensione da 20 anni e dice male a coloro che prendono attualmente i soldoni? Ma come la pensiamo? Cioè, le idiozie non si possono dire nemmeno pensare. Quindi lei la Lega la vede solo con il centrodestra, diciamo, come alleanza. Non c'è. Eventualmente col centrodestra, non col centrosinistra. Beh, quelli sono o uno o l'altro, oppure da sola, non è che ci sono altri. Da sola che farebbe? Lei, dottore, scusi, facciamo i conti. Quanti voti ha? Che percentuale ha? Non so, sul 10%, facciamo posso dire. Facciamo i conti e vediamo se. Va bene, vediamo. Padellaro, perché ha detto che può andare da sola la Lega? Che vuol dire? Sarebbe un suicidio politico? L'ascoltatore deve ascoltare meglio. Io non ho detto che la Lega andrà con il centro-sinistra, io ho detto che la Lega sta perdendo voti, sta perdendo consensi. Le ultime amministrative sono state una catastrofe per la Lega. Punto primo. Punto secondo, il feeling Bossi-Berlusconi alla fine, non perché i due non si amino, ma perché sono due leader ormai al tramonto. Insomma, non occorre essere dei geni per capire che ormai Berlusconi, così all'ultimo giro, che ne dicano i suoi laudatores, e che Bossi è nelle condizioni in cui è, e non voglio dire altro. Quindi arriveranno le seconde linee sono gli Alfano, i Maroni, gli Alfano nel PDL, i Maroni o altri nella Lega. Tutto questo non avverrà in maniera indolore, perché la lotta di successione nel PDL e nella Lega sarà una lotta sanguinosa, mettiamocelo bene in testa. A questo punto è evidente che le vecchie alleanze, i vecchi modi di pensare salteranno tutti. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere cosa avverrà, ma certo quell'equilibrio instabile che si è mantenuto in questi anni e che ha consentito al governo di avere una maggioranza anche molto forte è destinato a saltare. Quindi questo non si tratta di idiozie, si tratta di una analisi molto banale della situazione. E invece dall'altra parte come sono, perché poi chiederò anche a Stefano Zullo, ovviamente il giornale punta molto, ma anche il fatto, ieri leggevo Travaglio per esempio molto, molto diretto a dire: caro Bersani, che sta succedendo nel Partito Democratico? Anche a dire: è l'uomo giusto Bersani, con tutto quello che sta emergendo, per carità, garantisti, però stanno emergendo delle questioni abbastanza serie che coinvolgono Penati e non solo. Padellaro. Quello che ha detto Travaglio è questo, ed ovviamente è quello che la direzione del giornale pensa, è che Bersani non può fare finta di niente, anche se Bersani è una persona integra e personalmente non è stata sfiorata da nessun sospetto, ma lui ha due persone vicinissime politicamente a lui che sono nei guai giudiziari, perché abbiamo Penati è stato il braccio destro di Bersani per moltissimi anni e forse lo è tuttora, che è nella situazione che è, in cui è, cioè accusato di tangenti in quel di Sesto San Giovanni, ed è visto addirittura parliamo ovviamente sempre di testimonianze che possono anche essere delle testimonianze che possono essere smentite, ma i testimoni sono degli imprenditori che dicono di essere stati spennati, ecco, usiamo questo, dal sistema di potere di cui Penati faceva parte. Poi ci auguriamo tutti, non è un modo di dire, che poi Penati invece dimostri la sua innocenza, ma poco tempo fa un altro collaboratore di Bersani è finito dentro pronzato, che era addirittura l'esperto di trasporti, il responsabile della sezione del settore trasporti del Partito Democratico. Allora Bersani, e questo è quello che ha detto Travaglio, non può far finta di niente. Bersani non ha detto una parola su questo, E quando Letta, leggiamo stamattina, dice dobbiamo dimostrare di essere diversi dal berlusconismo, dice una cosa giusta, ma poi queste sono frasi che restano sui giornali se non vengono calate nella realtà. Facciano qualche cosa. Da settimane, da mesi, gli elettori del Partito Democratico assistono un po' sgomenti a queste notizie sui giornali e questi qui fanno finta di niente, si schiettano e poi se la prendono con Berlusconi, giustamente, perché il berlusconismo è un sistema di potere. Vediamo un po', sentiamo da questo punto di vista. Con sacche di corruzione. Stefano Zurlo, per il giornale si può leggere così, cioè se ci sono scandali giudiziari al centro-destra, al centro-sinistra non stanno messi meglio? Sì, io sono d'accordo col direttore, sono d'accordo con Padellaro, sono d'accordo intanto sull'altro punto, quando parlavo prima appunto di Alfano Maroni, esattamente quello, no? Prove tecniche di successione con tutti i se, i ma, i però che questo comporterà, ma comunque questo è lo scenario che al momento possiamo prevedere a medio-lungo termine, con molta instabilità. E sull'altro fronte... ogni tanto dicono che c'è la famosa mela marcia, però qui veramente, parlavamo prima, tre indizi fanno la prova. Tedesco, Pronzato e con Pronzato anche Morichini, fundraiser per conto della Fondazione Italiana Europei, un'indagine questa che in qualche modo indirettamente ha lambito persino Massimo D'Alema, che avrebbe preso alcuni passaggi, no, sugli aerei di questo imprenditore al centro dell'indagine, non che sia assolutamente indagato, però insomma è un'indagine importante che tocca i vertici del PD. E poi questa indagine a Milano con Penati, che quindi ci porta al cuore del partito, un uomo che appunto è stato per mesi il capo della segreteria di Bersani. Mi pare che la differenza sia che mentre a destra ci si dilania e i giornali danno grande risalto a tutte le indagini, a tutte le accuse, a sinistra si usano i vecchi schemi del moralismo e dell'ipocrisia, per cui a sinistra si dice che appunto sono casi isolati, che il partito è diverso, che è antropologicamente diverso. Sì. Le solite cose che abbiamo sentito, succede poi questo curioso balletto del voto per cui Papa va in galera e Senato no, e naturalmente il PD si chiama fuori, anche se i sospetti restano su quello che è accaduto. Ricordiamo che Tedesco è a sua volta un personaggio che aveva un assessore importantissimo in Puglia, sì, alla sanità in Puglia, Bendola, vicino, insomma stiamo parlando di punti fragili del partito, dell'organizzazione del partito, e le indagini stanno andando in molte direzioni e abbiamo tutto da verificare, ma abbiamo imprenditori in indagini diverse che hanno raccontato e confessato di aver pagato. Anche se assistiamo al paradosso, giusto per chiudere, che anche oggi Tedesco fa un'intervista, stavolta alla Stampa, ma si sta togliendo dei sassolini ogni giorno, oggi dice Bersani mi ignora, ora esco dal partito, ce l'ha con Rosi Bindi, che definisce la signorina Bindi, che ce l'ha con me. Sta di fatto che insomma Tedesco dice, quando io sono un socialista e dunque sono un criminale, perché non dicono a Penati di dimettersi, perché è un ex comunista. Insomma sta di fatto che la politica è un po' così, in un momento di confusione, possiamo usare questo termine, chi lo sa. Intanto ringrazio Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, così come Stefano Zurlo del Giornale, per essere stati con noi. Seguiteci su Facebook 24 Mattino, continuiamo la nostra discussione, e ringrazio con Franco Piantanida in redazione anche Elisabetta Fusconi e Laura Faggin, il nostro Roberto Scaltritti, che forse ci lascia oggi finalmente, dice almeno dormo un po' di più al mattino. Noi invece qua domani alle 7:20 siamo puntuali. La linea Oscar Giannino, a domani.